più, mangialo! Guarda là un altro merlino. Salve! Chi c'è? Il merlino. Dai, vai. Amici. Ciao Matteo. Ciao. Non una baia più.